241. Migliaccio di farina gialla primo. Questo è un piatto dei più ordinari, ma non è sgradevole a quelli cui la farina di gran turco piace e non produce acidi allo stomaco. I bambini poi salteranno dall'allegrezza se qualche volta la mamma lo darà loro caldo caldo per colazione nell'inverno. La farina gialla è sempre bene che sia macinata piuttosto grossa. Ponete in un recipiente qualunque quella quantità di farina di cui volete servirvi, salatela bene ed intridete la soda con acqua bollente. Quando sarà mescolata in modo che in fondo al vaso non resti farina asciutta, unitevi usa secca o zibibbo in giusta dose. L'uva secca nostrale è preferibile in certi casi allo zebibbo perché conserva un acidetto che le dà grazia. Prendete una teglia di rame e mettetela al fuoco con lardo vergine in abbondanza e quando questo comincia a grillettare versate l'impasto, il quale per averlo intriso consistente fa dopo distendere e pareggiare col mestolo. Poi spalmate nella superficie con un altro poco di lardo e rifioritelo con ciocchettine di ramerino fresco. Cuocetelo al forno o tra due fuochi. Fate che rosoli alquanto e sformatelo. Col detto impasto potete anche far frittelle, ma senza ramerino. La miglior farina gialla che io abbia sentito è quella d'Arezzo, ove il gran turco viene curato molto e seccato in forno. 242. Migliaccio di farina gialla secondo. Questo piatto è più signorile del precedente. Farina di gran turco grammi 300, zibibbo o uva secca grammi 100, strutto grammi 40, pinoli grammi 30, zucchero 3 cucchiaini. All'uva levate i semi, i pinoli tagliateli in due parti per traverso, la teglia ungetela con lo strutto e infarinatela, per il resto regolatevi come per l'antecedente.